abbiamo, come dire, un voto estremamente favorevole nei confronti appunto dei vari embarghi, dei vari blocchi che in questi anni si sono, come dire, hanno colpito pesantemente tanti paesi. Di fatto però quello che ci ha lasciati veramente basiti è che abbiamo infilato dentro anche ormai questo, il bloccheo nei confronti di Cuba. Tra l'altro con un cinismo incredibile, perché se gli ascoltatori si ricorderanno, le brigate mediche cubane sono venute l'anno scorso nel nostro paese, hanno lavorato a stretto contatto con tutto il personale medico della Lombardia e del Piemonte, e salvando vite umane. Quindi almeno un minimo, come dire, di riconoscimento per questo atto, dove anche medici e infermieri hanno rischiato anche loro la vita. Ma credo che il cinismo veramente abbia raggiunto dei livelli vergognosi. Ed è ancora più vergognoso che il governo italiano appunto si sia dimenticato di questo, che gli Stati Uniti, che il governo nordamericano e Israele siano ancora accaniti nei confronti di Cuba, beh, è storia. E ci auguriamo che però nessuno pensa che la nuova amministrazione Biden faccia qualcosa di diverso dalle altre, ma insomma quantomeno il governo italiano avrebbe avuto, come dire, un minimo di decenza nel come dire, votare contro, o comunque distinguersi e fare dei distinguo. Ma così non è stato, e quindi noi siamo veramente molto molto disgustati da questo voto, non solo noi come associazione, come Villetta, ma l'associazione Italia Cuba, ma tutte le realtà di solidarietà nei confronti di quel paese. Siamo, tra l'altro, abbiamo fatto comunicati per quello che può servire, stiamo cercando di capire anche se si possono mettere in piedi delle iniziative. È chiaro che in questa situazione di pandemia è molto difficile, ma sarebbe interessante misurare anche una reazione da parte delle varie realtà associative, delle varie realtà che ci sono tantissime nel nostro paese, e per capire un attimo insomma che risposta eventualmente si potrebbe dare nei confronti di questo voto. Tu hai citato Biden e Israele, insomma nemici ormai giurati di Cuba, quindi il voto italiano deve essere letto in una fedeltà al patto atlantico? Beh, ma sicuramente. Io credo, non l'ho mai pensato e non l'ho mai pensato bene del nostro ministro degli esteri, quindi io credo che il signor Di Maio sia anche lui un bandito, perché così io definisco questi soggetti. Oggi più che mai, con un governo guidato da Draghi, che non è un governo eletto da nessuno, è un governo dei banchieri, è il governo delle grandi finanziarie, e beh, è un governo che stringe nei confronti comunque dei paesi e continua a essere ossequioso nei confronti dei voleri di Washington. Quindi sì, c'è una continuità atlantica, perché siamo dentro la NATO, ma questo lo siamo nei confronti, mi allargo se me lo permetti, abbiamo l'esempio dell'Egitto, abbiamo l'esempio di Regeni, di Zaki, ma continuiamo a vendere armi a quel paese. Quindi, cioè, come dire, il ruolo dell'Italia oggi è sempre di più di subalternità rispetto ai voleri di Washington e ai voleri della NATO. Eppure in questa situazione appunto che vive oramai da decenni il popolo cubano, con l'embargo e aggiunta alla pandemia, che comunque è un problema anche là, è un paese che ha sviluppato un proprio vaccino e che sta dando lezioni un po' a tutto il mondo. Ma non solo ha sviluppato un vaccino, ma si è reso anche disponibile a donarlo agli altri paesi. Noi, per scherzo, un mese e mezzo fa abbiamo lanciato come associazione, abbiamo mandato una richiesta al nostro Ministero della Sanità dicendo, beh, insomma, stiamo comprando vaccini da tutti, compreso lo Sputnik russo, pare, e beh, i cubani hanno sperimentato un loro vaccino, ma perché allora non lo prendiamo anche da loro? La risposta non è arrivata, c'è il silenzio totale. Il blocco contro Cuba sta mettendo in ginocchio quel paese, lo sta affamando, nel senso non proprio, lo sta affamando veramente, perché non arrivando aiuti la popolazione è stremata. E quindi è una situazione veramente vergognosa, e dalla quale però non sappiamo bene come se ne possa uscire. C'è anche quindi questo accanimento ormai dei grandi poteri economici, finanziari e politici, perché si trasforma tutto poi in scelte politiche nei confronti anche di quel paese, ma possiamo allargare ancora al popolo curdo, al popolo palestinese, cioè nei confronti di chi cerca disperatamente di trovare una soluzione alla propria esistenza.